Hai già vinta la causa. Cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza sarà. Ma se pagasse la vecchia pretendente, pagarlo in qual maniera? E poi vi Antonio, che un incognito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto, tutto giova un raggiro. Il colpo è fatto. Vedrò mentr'io sospiro, felice un servo mio. E un ben ch'invan desio, ei posseder dovrà. Vedrò per man d'amore, unita un vile oggetto, in me desto un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò mentre io sospiro, felice un servo mio. Vedrò che un ben ch'io desio e posseder dovrà. Vedrò per man d'amore, unita un vile oggetto, chi in me desto un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò, vedrò, vedrò, vedrò. Ah no, lasciarti in pace, non ho questo contento. Tu non nascesti audace, tu non nascesti audace per dare a me tormento, e forse ancor per ridere di mia infelicità. C'ha la speranza sola delle vendette mie, quest'anima consola e giubilar mi fa, e giubilar, e giubilar mi fa. Ah, che lasciarti in pace, non vo questo contento. Tu non nascesti audace per dare a me tormento, e forse ancor per ridere di mia infelicità. C'ha la speranza sola delle vendette mie, quest'anima consola e giubilar mi fa, e giubilar, e giubilar mi fa, e giubilar, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa. E giubilar mi fa.